marzo della Pace è nata all'inizio del 2016, poi siamo cresciuti piano piano, l'anno del Covid ci ha fatto saltare, ma adesso eccoci di nuovo qua. È diventata la marcia della pace e dell'accoglienza dentro a una città che speriamo non perda l'anima su questi temi e che continui a esserci a battere un colpo forte. Quest'anno avremo alle 3:30 ci troveremo in Piazza del Nettuno e ci saranno alcuni saluti delle comunità insieme a Zuppi, al cardinale, poi una fiaccolata che ci porterà in Piazza Coperta, a Lucio Dalla, quindi nel cuore del quartiere Navile, nel cuore di una periferia dove la convivenza e l'intercultura e i conflitti e la soluzione dei conflitti li viviamo ogni giorno. E lì ci saranno gli interventi finali. Abbiamo Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea, avremo Maurizio Landini, segretario nazionale della CGIL, che chiuderà la manifestazione. E anche una testimonianza di un missionario della chiesa bolognese in Sud Kivu, nel Congo. Sentite che si parla di sindacato, di CGIL, di Zuppi, di chiesa e il portico della pace. Noi lavoriamo così e ci crediamo. Vogliamo costruire coralità perché la differenza di storia e di identità arricchisce e ci rende più forti a spingere anche solo di un centimetro la causa della pace in questo momento così brutto. Anche le realtà che hanno aderito, che fanno parte di questo percorso, che sono comunque all'interno della cornice di Europe for Peace, sono variegate, ecco. Sì, esatto, hai fatto bene a ricordarlo. Ci muoviamo nell'ambito della coalizione di Europe for Peace, a cui Bologna ha partecipato fin dall'inizio, credendoci. Eravamo in tanti il 5 novembre a Roma e ora questa mobilitazione coinvolge diverse città in Italia, tra idealmente i due Natali, quello cattolico ora e quello ortodosso il 7 di gennaio. Quindi ci sono città come Torino, Verona, Firenze, Bari, Napoli, Catania e altre, e in questo contesto c'è anche la nostra città. Aderiscono al momento alcune decine di realtà, sono le realtà più vive e più particolari della nostra vita cittadina, ma anche sigle importanti di aggregazioni organizzate come ARCI, ACLI, i sindacati stessi, eccetera. La pace ovviamente riguarda tutti i conflitti nel mondo, ma è impossibile non pensare a quello in Ucraina. Quali sono le vostre richieste? Guarda, noi non è che possiamo, come dire, veniamo anche irrisi, no? Per questo nostro ripetere il grido della pace, però insomma Papa Francesco, che un po' è il padre di riferimento, no? La guida di tutto questo movimento, non c'entra questione di far credenti, non credenti, credo che ci siano dentro tante sensibilità e tante spiritualità. Io penso che questo nome vada ripetuto ad alta voce, che le esigenze della pace vadano ricordate. Non è solo una questione di intervenire laddove ci sono i grandi decisori e i grandi centri di potere. Noi cerchiamo anche di fare un atto di profonda fede nei processi di partecipazione democratica, ci crediamo fino in fondo, per cui credo che sia importante che una cittadinanza scenda in piazza e dica quello che pensa e quello che vuole, e lo dice ai suoi rappresentanti politici, lo dice ai suoi decisori. Credo che la politica della pace, così come alcune grandi questioni, la politica del lavoro, vengano prima di ogni altra politica, altrimenti poi le formazioni partitiche che cercano di rappresentarci non sanno più come fare. Prima della pace non ci sono altre politiche, altrimenti significa soltanto rimanere in soggezione tristemente dei grandi centri di potere politico, economico e militare. L'obiettivo comunque minimo è arrivare a un cessate il fuoco. Sì, assolutamente. Quello che noi chiediamo nell'ambito della mobilitazione Europe for Peace: cessate il fuoco, il negoziato, un dialogo incessante che sia forte, che sia però anche umile, come è necessario che le persone che provano a parlare si mettano in questa disposizione, e che ci sia un confronto onesto, franco. I conflitti ci sono, l'istinto della violenza c'è, ma i torti e i diritti si riparano in un confronto e si ricompongono in un dialogo costante. Bisogna scegliere fino in fondo la strada che porta alla pace e che rende lo strumento della guerra uno strumento arcaico. Ripeto, la violenza fa parte da sempre della storia umana, ma è possibile organizzare la nostra società in un modo che renda arcaico il ricorso allo strumento della guerra.